sia lungi e il tempo è teco. Piacere, io non ti intendo, meco sempre tu sei misto d'affanno, e meco sempre il tempo, il disinganno. Quando chiude la terra e il regno mio, se me veder non vuoi, pensa di farti in cielo un'alma sene. In cielo ovvio non giungo, e dove bella eternità risiede. Fa di me mio muso, che se il piacer ti inganna con tardo pentimento, mi chiamerai ed io dirò: non sento.